fare una domanda. Dunque, io più che una domanda, volevo dire alcune cose. Io trovo che questo dibattito è incominciato all'inizio in maniera, secondo me, molto interessante. Poi Burgio ci ha posto alcune problematiche che almeno persone come me, che sono vecchie ormai, conoscono da tempo. Cioè, questo tipo di scontro, praticamente, che Burgio ci pone, ce l'avevamo già negli anni 70. Non necessariamente a questo livello teorico in cui si è svolto oggi, ma a livello proprio di lotte dentro il movimento, anche se non avevamo le condizioni che adesso ci sono. Io, ma non per questo, però io evidentemente ce l'ho con Burgio, cioè io mi ricordo le posizioni del, assolutamente, queste qui sono le posizioni del vecchio PC, col quale abbiamo fatto gli scontri e per il quale siamo andati in galera. Non è una cosa da poco, evidentemente, ma non è nemmeno astio che io, perché questa è la lotta dentro la società, anche dentro la sinistra. Voglio dire, chi dice io sto da parte dei marinari di Kronstadt, cazzo, è una lotta che viene da molto lontano, quindi io non mi meraviglio. A me personalmente uno degli ex segretari Pizzinato mi ha promesso che mi avrebbe fatto mandare in galera, ma non per questo io me la prendevo, io non ce l'ho. Interno, dentro la sinistra, contro quel movimento c'è stata una grandissima lotta. Voglio dire, i 200.000 a cui Berlinguer nel 1977 a Roma parlava in piazza e diceva: gli untorelli delle 35 ore e dei passaggi automatici, da quelli ci dobbiamo guardare. E per Dio, voglio dire, la battaglia che c'era negli anni 70 non era una battaglia da poco. Oggi si può anche dire, come dice Farina, secondo me, in maniera impropria e da sconoscente, cioè da uno che non conosce, no? Che magari poi non ci siamo mossi più perché c'è stata la grande repressione, eccetera. Eh sì, c'è stata la grande repressione, ma la repressione non è stata solamente la repressione dello Stato, no? È stata la repressione nell'interno di questa sinistra che c'è stata per un periodo fatale. Le conquiste che sono state fatte, qui non si sputa contro le conquiste anche della, voglio dire, della sanità, eccetera, tutte queste cose, anche se Revelli poi ha ragione, no? Sulla risposta che dava alla fine. Il fatto è che, come diceva Christian, che secondo me ha centrato veramente in pieno quel discorso, e su questo secondo me sbaglia Tripodi, quando vuole dare tutte le figure, qui c'è l'intreccio, qui il passaggio che noi stiamo vivendo è come il passaggio, non so, si arrivava dal Medioevo al Rinascimento, ma mica c'è una data, no? È un lungo periodo. Certo, oggi le cose sono molto più veloci, evidentemente, sono nazisticamente forse più veloci. Allora, secondo me il fatto qual è? Che qui bisogna incominciare, no? A fare delle cose. E non c'è bisogno di fare delle grandissime enunciazioni. Voglio dire, quando si dice riduzione drastica dell'orario di lavoro, salario di cittadinanza, sono discorsi di carattere universale in questo caso. Qual è l'intreccio? L'intreccio è, e secondo me Revelli, Bonomi, eccetera, state attenti che state facendo un grande male quando parlate di non profit, no? E state facendo un errore di carattere terribile, che è quello di vedere questo non profit legato a servizi sociali. Questo è terribile come errore. Questa è la cosa più grande che un comunista, un errore più grande di questo non si poteva fare. Noi di produzione dobbiamo parlare. Quando Tripodi dice andiamo nelle periferie per la scuola, eccetera, sta roba qui, Tripodi subito, immediatamente deve pensare chi paga gli insegnanti. Se non si fa questa domanda è solidarismo. Non c'è il Black Panther Party in Italia. Quando facevano gli asili, eccetera, tutte queste cose, ed è una cosa eroica, da amare. Oggi fare il discorso dell'economia è affrontare l'economia, non avere paura di affrontarla. Non è il discorso l'economia comanda sulla società. Ma che cosa sono questi discorsi? Questi sì regressivi. Il discorso è che oggi noi ci troviamo in una situazione determinata. Facciamo delle estrazioni verso la tendenza per non fare degli errori nel presente. Però pensiamo che se vogliamo fare un discorso, e diciamola la parolina, di carattere rivoluzionario, no? Diciamola, la rivoluzione non è detto che debba essere sempre quella che noi abbiamo tentato negli anni 70 e che per quello ci hanno repressi e oggi abbiamo ancora paura, no? Possiamo parlare di rivoluzione, parlare di lotte, però magari si incomincia da un'altra parte. E allora, vogliamo tornare, voglio dire, è vero quello che si diceva su Hegel, non è Burgio, ma che cazzo? Cioè Hegel vedeva lo Stato come il regolatore di tutto, mentre il discorso dell'atomizzazione della società era il discorso delle barbarie. Lo Stato è stato lo Stato regolatore. Il capitale ha fatto questo tipo di discorso perché la sua accumulazione è stata un'accumulazione violenta, sorge lo Stato, sorge il diritto come un altro tipo di violenza. Ma questo qui dovrebbe essere una cosa scontata, viva Dio, anche per chi ancora vuole leggere i classici nella maniera classica. Allora, noi questo, il discorso che dobbiamo affrontare è che gli atomi sociali dentro questa società cominciano con questo discorso sul post-fordismo, che esiste, non è vero che non esiste, il coreano può dire quello che cazzo vuole, noi non discutiamo di post-fordismo per metterci una maschera davanti, noi abbiamo dato, no, un termine a un cambiamento che non è un rinnovamento sociale, è un cambiamento, una mutazione del capitale. Allora, noi dobbiamo incominciare affrontare il discorso di questi atomi sociali che si muovono, che non sono gli atomi del non profit, sono gli atomi della qualità della vita, sono gli atomi del riconoscimento di una propria generalità come atomo, ma siccome l'atomo deve riconoscere la differenza di un altro atomo che ha un'altra generalità, che entra in rete, che non è la rete del capitale, ma che entra in rete, entra in contatto, entra in comunicazione, che non è la comunicazione del just in time della Fiat, è la comunicazione del just in time della società, di un sociale che vuole essere rivoluzionario. È un sociale che nell'intreccio e nel passaggio deve fare un suo passaggio, secondo me, per vederlo in tendenza, che a un certo punto troverà un dualismo di carattere sociale, che non è i due livelli della società di cui parlava Sorrosa nel 1977. È un discorso di carattere rivoluzionario in cui prima o poi ci sarà probabilmente un grandissimo conflitto a livello sociale. Quale società? Quella ancora che resisterà del capitale? O questa società che si è incuneata ormai, che chiede non il diritto di cittadinanza, ma che chiede la generalità, no? Dentro la società. Quindi anche il discorso del dono, del non market, eccetera, queste cose qui, facciamo che siano magari degli atomi che lo vogliono fare, però noi dovremo affrontare il discorso della scienza, dovremo affrontare il discorso della produzione, e queste qui, altrimenti noi li lasciamo al capitale e veramente saremo dei surrogati al post-fordismo nel sociale, se pensiamo che no, faremo assistenza, eccetera, tutte queste cose. Noi faremo assistenza, ma probabilmente faremo l'assistenza che avremo una medicina talmente avanzata e una medicina talmente differenziata nell'interno dei territori, perché è vero che esiste, Bonomi, una differenza tra luogo e spazio, però noi sui luoghi, sui territori evidentemente dobbiamo agire. A me mi sembra che Cristian lo affrontava il discorso nel posto dei Calzini, che era anche il discorso addirittura del territorio e della terra, no? Analizzando tutto ciò che è avvenuto, mi pare, negli Stati Uniti durante il reaganismo. Noi dovremo affrontare questo tipo di problematiche, perché non vogliamo quello che vuole Burgio, e cioè l'industrializzazione del sud, che non ce ne può fregare meno di niente. Noi vogliamo, dal paradosso del sottosviluppo del sud, per esempio, no? Non andare a finire allo sviluppo del nord-est, dove i territori sono stati completamente distrutti. Evidentemente, da un punto di vista rivoluzionario, incominciando nei territori dei quartieri degradati delle metropoli e incominciando nei territori fiorenti, per esempio del sud, dove c'è un'intellettualità, quanto c'è al nord, che si possono fare delle grandissime cose, nessuno ci pensa evidentemente a questo, e cercare di andare a incominciare a vedere di portare questo sviluppo di discorso che stiamo facendo, viva Dio, magari la prossima volta Burgio non ci sarà, e speriamo che ci sia un modo, un tempo in cui anche lui possa incominciare a pensare in maniera rivoluzionaria e non nella maniera esclusivamente generalista, poi, perché gli esempi ce l'abbiamo avuto, e incominciare non solamente a parlare di non profit, come noi siamo quelli che non vogliamo profitto, ma siamo quelli che vogliamo benessere, qualità della vita, rivoluzione.